Economia in Europa. In collaborazione con Euronet. I risultati del summit europeo della scorsa settimana hanno visto la sigla di un accordo a 26 con la decisione del Regno Unito di tenersi fuori dal progetto di unione fiscale che ha fatto molto discutere anche all'interno del governo britannico. Questi temi al centro della cronaca economico-finanziaria di questa puntata di Economia in Europa. Venerdì scorso a Bruxelles si è arrivati ad un'intesa 26 per il nuovo trattato sull'unione di bilancio con la sola esclusione di Gran Bretagna. Il trattato darà vita ad un'unione con regole di bilancio più stringenti e sanzioni automatiche per chi sfora i deficit. Ero andato a Bruxelles onestamente cercando un accordo con richieste modeste, ragionevoli e rilevanti, lo ha detto il premier David Cameron alla Camera dei Comuni, spiegando che quando la scelta si è rivelata essere tra un trattato senza giuste salvaguardie o niente trattato, è stato costretto a scegliere niente trattato. Sentiamo un estratto del discorso di Cameron. La Gran Bretagna gioca un ruolo di primo piano nel contesto europeo. La Gran Bretagna continuerà a stringere alleanze riguardo questioni che vogliamo che siano realizzate. Abbiamo sempre avuto un ruolo di guida nell'appoggiare i processi di allargamento dell'Unione. E infatti, nel corso del Consiglio europeo, è stato firmato il trattato di adesione della Croazia all'Unione. Questo è stato un trattato europeo che sono stato contento di firmare. Non credo ci sia una possibilità di scelta per la Gran Bretagna tra sacrificare l'interesse nazionale o perdere la nostra influenza nel processo decisionale su questioni chiave in Europa. Voglio essere chiaro, penso sia possibile essere un membro importante e impegnato dell'Unione Europea, ma restare fuori da accordi che non proteggono i nostri interessi. Questo è quello che ho fatto al Consiglio europeo. Questo è quello che continuerò a fare finché sarò primo ministro. Intervistato domenica dalla BBC, Nick Clegg, vice primo ministro inglese e leader del Partito Liberal Democratico, alleato con i Tory di David Cameron, ha spiegato il suo punto di vista dopo la decisione di Cameron di dire no all'Europa, prendendo le distanze dal Premier. Sentiamo un frammento dell'intervista. Sono profondamente amareggiato dall'esito del vertice della scorsa settimana, in particolare perché penso sia concreto il pericolo che il Regno Unito venga isolato e messo ai margini nel contesto europeo. Non penso sia positivo per l'occupazione, sia nella City che altrove. Non penso sia positivo per la crescita o per le famiglie in tutto il paese. Ecco perché i liberaldemocratici nella coalizione di governo faranno di tutto perché questa battuta d'arresto non diventi un elemento permanente di divisione. Dobbiamo tornare in sella e agire con determinazione su temi come il mercato unico, l'ambiente, la politica estera, la difesa, ossia tutte le tematiche da affrontare a livello europeo, in modo che la Gran Bretagna possa fare da guida e non essere messa ai margini. Anche il commissario europeo agli affari economici, Olli Rehn, ha espresso un profondo dispiacere per la decisione della Gran Bretagna di non aderire alla nuova unione di bilancio. Se la mossa della Gran Bretagna voleva evitare che la City e i suoi servizi finanziari non venissero regolati, questo non succederà, ha detto inoltre. Sentiamolo. Mi dispiace profondamente per la decisione della Gran Bretagna di non aderire alla nuova unione di bilancio. Mi dispiace non solo per il bene dell'Europa, ma anche per quello dei britannici e del loro avvenire. Vogliamo una Gran Bretagna forte e costruttiva in Europa e vogliamo che sia al centro dell'Europa, non al lato. Se la mossa della Gran Bretagna voleva evitare che la City e i suoi servizi finanziari non venissero regolati, questo non succederà, perché abbiamo imparato la lezione della crisi e la applicheremo anche al settore finanziario. Voglio anche ricordare che il governo britannico ha sostenuto e votato il six-pack, che già contiene regole per una sorveglianza rafforzata. Quindi anche deficit e debito della Gran Bretagna subiranno gli stessi monitoraggi di tutti gli altri, anche se alcune regole del six-pack si applicano solo ai paesi dell'Eurozona. Mostly applies to the euro area member states. Cameron dice quindi che tra la difesa dell'interesse nazionale e una nuova Europa preferisce la prima scelta. Resta il dubbio, espresso anche da Rehn e dallo stesso vice premier Clegg, che la Gran Bretagna difenda davvero i suoi interessi in questo modo. Sebastiano Barisoni ne ha parlato con Leonardo Maisano, corrispondente del Sole 24 Ore da Londra. Sull'idea europea la Gran Bretagna ha, come dire, una posizione sua che non è paragonabile a quella degli altri partner e che si distanzia da sempre, si è sempre distanziata dal solco, diciamo, del nucleo fondatore dell'Unione. Quindi non condivide quell'ideale che può essere di stampo federalista o di strettissima cooperazione intergovernativa. Ha sempre avuto una visione più, diciamo, utilitarista, in senso positivo, pragmatico, quale è sempre stata l'impostazione britannica. In questa logica bisogna vedere la sua posizione sui servizi finanziari. Ora, la questione di fondo però è capire se la scelta di Cameron è una scelta che in effetti difende e tutela i servizi finanziari oppure se lascia di fatto la situazione come prima. L'impressione prevalente è che in realtà non cambi niente, cioè che, come diceva il commissario Rehn, in realtà se 26 paesi si mettono d'accordo in chiave intergovernativa sull'introduzione di una serie di misure di regole finanziarie e poi portano questa proposta all'interno dell'Unione Europea, dove si aggiunge l'unico paese mancante, cioè la Gran Bretagna, è chiaro che continui ad avere una maggioranza contro la Gran Bretagna. Cameron sostiene che in realtà se ci fosse stato un trattato all'interno del trattato, quello che lui sosteneva gli fosse stato chiesto, questo sarebbe stato molto più difficile da gestire, sarebbe stato molto più difficile per la Gran Bretagna riuscire a gestirlo. In realtà è molto dibattuta come tesi e non solo l'opposizione, ma anche i membri del governo liberal-democratico sono contrari, cioè non vedono questa capacità di tutela aggiuntiva. E chiudiamo con i dati del bollettino di dicembre della Banca Centrale Europea, pubblicato giovedì 15 dicembre. Il consiglio direttivo della BCE si attende che nel 2012 l'attività economica dell'area euro registri una ripresa, seppure molto graduale, favorita dalla tenuta della domanda mondiale, dai tassi di interesse a breve termine assai contenuti e da tutte le misure prese per sostenere il funzionamento del settore finanziario. Un quadro che, secondo quanto riporta il bollettino di dicembre dell'Eurotower, trova riscontro nelle stime degli esperti dell'eurosistema, che prevedono per il PIL reale un tasso annuo compreso fra l'1,5% e l'1,7% nel 2011, tra il -0,4% e l'1% nel 2012 e tra lo 0,3% e il 2,3% l'anno successivo. Tuttavia, il Consiglio direttivo ritiene che vi siano considerevoli rischi al ribasso per le prospettive economiche nell'area euro. In un contesto di elevate incertezze, questi rischi, precisa, sono connessi in particolare al fatto che le tensioni si intensifichino ancora nei mercati finanziari dell'area, nonché alla loro potenziale propagazione all'economia reale nell'area dell'euro. Infine, riguardano anche l'economia mondiale, che potrebbe risultare più debole delle attese, nonché le spinte protezionistiche e una possibile correzione disordinata degli squilibri internazionali. Dal rapporto di dicembre della BCE si legge inoltre che l'inflazione persiste su livelli elevati dalla fine dello scorso anno, sospinta principalmente dai rincari dell'energia e dalle materie prime. In prospettiva è comunque previsto un rientro, perché a fronte di una più debole crescita dell'attività sia nell'area euro sia su scala mondiale, c'è da attendersi che restino modeste anche le pressioni di fondo su costi, salari e prezzi nell'area. Per questa settimana con Economia in Europa è tutto. Economia in Europa, in collaborazione con Euronet.